Il libro è un alfabeto di filastrocche, dalla A alla Z, dedicato interamente ai migranti, al fenomeno delle migrazioni. E nasce all'indomani di quella grande tragedia avvenuta nel Mar Mediterraneo il 3 ottobre del 2013. Nasce da riflessioni fatte insieme ai miei alunni, da spunti di lavoro, dal desiderio di capire questa realtà, dai loro interventi, dalle loro domande, dal tentativo di rispondere alle loro domande. È nata un po' l'esigenza di mettere ordine, di dare una chiave di lettura per decodificare questa realtà difficile e dolorosa. E così, ecco, la filastrocca ci è venuta in aiuto, perché la filastrocca è uno strumento molto potente, riesce in modo leggero a dire delle realtà difficili da dire, ecco, perché magari dolorose, perché magari un po' pesanti. E quindi in questo modo, appunto, sono nate poi le filastrocche che ho scritto da solo in un tempo successivo. E l'alfabeto risponde proprio a questa esigenza di mettere ordine in qualche modo, di far chiarezza. Ecco, e proprio sulla difficoltà di affrontare temi che, appunto, come dicevi tu, possono anche essere pesanti, difficili da raccontare dei bambini. Il tuo libro si dice per bambini dai 7 anni, tu poi lo hai anche portato all'interno delle scuole, e quindi ti chiederei anche un po' com'è cercare di parlare di queste tematiche ai bambini, in che modo sei riuscito a farlo e com'è andata anche l'esperienza, appunto, all'interno delle scuole. Ma l'esperienza che sto facendo nelle scuole è un'esperienza ricca, perché quando si incontrano persone, quando si incontrano tanti bambini, insomma, si porta a casa sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di arricchente. È una bella esperienza fatta anche qui di tante domande che ricevo, di momenti in cui i bambini dimostrano questo desiderio di raccontare, perché poi alla fine loro sono informati, perché vedono il telegiornale, hanno modo di parlare con i genitori di certe questioni anche difficili, e quindi desiderano raccontare, desiderano dire la loro. Quindi è una bella esperienza, un'esperienza in cui, ecco, le filastrocche fanno la loro piccola parte e vedo che, insomma, sono ben accolte. In fondo queste sono filastrocche migranti, per loro natura quindi chiedono accoglienza, chiedono ospitalità, e vedo che in giro per le scuole d'Italia la ricevono una bella accoglienza, e questo mi rende felice. E a proposito, appunto, del giro in Italia, domani ci sarà una tappa alla libreria Leggere Leggere, quindi ti chiederei anche come sarà organizzato, come si strutturerà questa giornata di venerdì, appunto. La libreria Leggere Leggere, a mio avviso, ha fatto una cosa deliziosa, perché ha pensato di organizzare questa settimana, ecco, di eventi, questa rassegna, scegliendo come titolo proprio il titolo del libro, Di qua e di là dal mare, pensando di fare alcuni eventi che in qualche modo rappresentassero il di qua del mare e altri il di là, se per di là si intende, appunto, il mondo, ecco, lontano rispetto a quello in cui abitiamo. Quindi il mondo da cui provengono tante persone che scappano, no, da situazioni difficili. Domani io arriverò nel primo pomeriggio e incontrerò i bambini di una scuola. Poi alle 18 ci sarà un incontro con chi vorrà essere presente, quindi i bambini ma anche adulti. In fondo, vabbè, c'è questa ingenua presunzione da parte mia di aver scritto delle cose per bambini, ma che in qualche modo possano arrivare ai grandi, possano essere spunto di riflessione anche per gli adulti. E quindi gli incontri di domani sono uno dei momenti di questa rassegna, che prende appunto il titolo dal mio libro, e questo, insomma, mi ha reso orgoglioso. Ecco, io ringrazio Chiara Basile, la sua collaboratrice, di aver pensato di far così, insomma, di aver pensato di dedicare uno spazio privilegiato al mio lavoro e di intitolare l'intera rassegna come il titolo del mio libro. Ok, ti faccio un'ultima domanda che è un pochino più forse di attualità, però, insomma, tu dicevi l'hai scritto questo libro in seguito ai fatti del 2013, e quindi ti volevo chiedere anche se secondo te, essendo cambiato un po' il clima politico da allora, se c'è stato anche un cambiamento nel modo in cui viene poi recepito il tuo libro. Parlando coi bambini, coi ragazzi, perché mi capita di andare anche alla scuola media, mi accorgo, beh, anzitutto che loro sono ben informati rispetto al clima che si respira nella nostra società. Sono ben informati e hanno, come dire, un punto di vista in alcuni casi ben preciso, ben strutturato. Sanno che cosa si può classificare come in qualche modo razzista, e sanno bene, appunto, certe posizioni intransigenti ci incattiviscono. Quindi mi accorgo che qualcosa è cambiato fatto perché trovo ragazzi più informati. Poi devo dire la verità, ecco, le posizioni dei piccoli sono a volte posizioni che rispecchiano certi discorsi che si sentono fare a casa, certi atteggiamenti un pochettino duri che magari arrivano dagli adulti, ma nella maggior parte dei casi trovo, ecco, bambini che riescono a ragionare, riescono a dire cose di una freschezza che stupisce, ecco, hanno comunque un punto di vista originale e fresco che capisco che escono così da quello che è il loro modo di pensare, da quello che è il loro modo di vivere l'amicizia, di vivere le relazioni con i compagni di classe. In fondo loro, tra di loro, sono amici e basta, manco si accorgono, ecco, del colore della pelle differente, si conoscono da quando fanno la scuola materna, quindi non badano troppo a questi particolari, però sono attenti alla realtà, alle voci, a quello che ci arriva attraverso la TV, ma anche attraverso gli incontri che facciamo quotidianamente. Sono attenti e sanno dire la loro, e quindi credo che questo clima che è mutato in qualche modo abbia fatto drizzare le antenne anche a loro.